pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo facioso todo es fingido, todo es fingido. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Ay, qué habrá pasado? Que ruge Mussolini, suspira Franco, suspira Franco. ¿Para qué tantos humos, tantos faroles, si nuestros marineros son españoles? ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué estará pasando? La marina española que está luchando, que está luchando. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La marina española que ya ha vencido, que ya ha vencido. Iniziamo così lo spazio, i muri abbattuti diventano ponti. Basta con una mano y han de ver y lo van a ver como el Baleares se perderá el Canarias bajo los mares, bajo los mares. Y han de ver y lo saben bien y ya lo habéis visto que hacen los españoles con el fascismo, con el fascismo. Frente al cabo de Palos, sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo facioso todo es fingido, todo es fingido. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Ay, qué habrá pasado? ¿Qué ruge Mussolini? Suspira Franco y suspira Franco. Questa sera parliamo di donne sotto sospetto, memoria e sessualità sotto il franchismo e in particolare un incontro con Raquel Osborne, una ricercatrice di Madrid, e Cecilia Montagut, la regista del film Mujeres de Bien Vivir, sulla vita delle lesbiche all'epoca del franchismo in Spagna, un film che è stato presentato al Festival Sempre Fair Cake questo settembre e dove abbiamo appunto incontrato queste due compagne. Il film Mujeres de Buen Vivir di Cecilia Montagut è un corto di 11 minuti che è stato passato a Bologna come prima italiana, dove si raccoglie la testimonianza di Luisa, una oltre ottuagenaria lesbica, che racconta com'era possibile viversi anche sotto il franchismo, racconta di un giro di ragazze lesbiche a Barcellona. E però diciamo che questo film è solo uno dei prodotti di un progetto di ricerca molto ampio di cui vi parleremo insomma in questo spazio con la voce delle appunto delle ricercatrici e della regista. Ovviamente insomma si tratta di una ricerca ampia in cui insomma si mette in luce come le donne in Spagna nel periodo della Repubblica avevano potuto sperimentare una vita da cittadine, una vita quindi non da suddite, una vita in cui potevano scegliere quello che volevano dalla vita. Subito con l'avvento del franchismo Franco cercò di imporre un modello alle donne in Spagna che mischiava i principi tradizionalisti del movimento nazionale con quelli che aveva iniziato ad elaborare la borghesia dai tempi della rivoluzione industriale. Due modelli che si mischiavano, quello appunto della donna del regime che veniva veniva opposto però a quello invece delle militanti e prima delle cittadine della Repubblica. Cominciamo questo spazio facendovi ascoltare un pezzetto della conferenza che Raquel Osborne e Cecilia Montagut hanno tenuto a Bologna. È un audio piuttosto breve, con traduzione, con un sonoro non perfetto, insomma, perché è stato ripreso dal vivo durante la conferenza. Poi invece continueremo con l'intervista, in cui l'audio è sicuramente migliore, quindi vi chiediamo un pochino lo sforzo di seguire questo primo intervento. Este documental que trata de reflejar un aspecto de la memoria de la sexualidad de las mujeres en el franquismo. Gracias, señor Gerber, tanto esta conferencia y el film que parla de una parte de la memoria de la sexualidad de las donne durante el franquismo. Este documental formó parte de una ponencia presentada en un seminario sobre durante el franquismo, donde hemos hecho este documental. Este documental dentro cui si inserisce questo documental. Y la historia era que habíamos empezado a investigar sobre el tema de la sexualidad del franquismo y la sexualidad no normativa, porque nos dimos cuenta que ese tema no estaba tratado en España, ni por la memoria histórica, ni por el movimiento gay, ni lésbico, ni por la historiadora, ni por los estudios de género. Dunque ci siamo messi ad indagare la questione della sessualità e delle sessualità non normative durante il franchismo, perché ci siamo resi conto che la questione non era affrontata né dagli storici né dagli storici del movimento, né dagli studi di genere, quindi né gli studi di genere, né con la memoria storica, lo studio di memoria storica, e quisimos trattare dentro de los temas de memoria histórica el tema de la sexualidad femenina y de la sexualidad no normativa femenina. Questo era il nostro. Quindi hanno cercato di affrontare dentro della questione della memoria storica, nell'ambito della memoria storica, la questione della sessualità femminile e della sessualità femminile non normativa. Y entonces empezamos a buscar dónde, qué podíamos investigar, dónde podíamos encontrar la sexualidad de las mujeres en el franquismo. Y entonces hemos comenzado a cercare dónde podemos trovar tracce della sessualità femminile durante el franquismo. Y hemos contactado con una investigadora catalana, Mati Albarracín, que estaba estudiando un grupo de mujeres en Barcelona pudo vivir gozosamente su sexualidad durante los años 40 y 50 del franquismo en Barcelona. E quindi hanno contattato una ricercatrice che stava studiando, stava facendo un lavoro su delle donne che durante gli anni 40 e 50 a Barcellona hanno vissuto il proprio lesbismo tranquillamente. Y entonces esta mujer que hemos visto aquí es una de las personas investigadas por Matilde Albarracín, y esta que hemos visto era una ponencia en el Museo Reina Sofía en Madrid, por eso Luisa, la persona que habla, la persona mayor, la lesbiana mayor, habla con un público sobre esto. Sí, la protagonista del documentario faceva parte de esta ricerca de esta estudiosa de Barcelona, e la ripresa è stata fatta durante un convegno al Museo Reina Sofía. Y aquí es tan difícil encontrar un testimonio así, y si se pierde, todo el mundo seguiría pensando que antes de 1970 no existían las lesbianas en España. Sí, sarebbe un peccato perdere una testimonianza del genere, perché quando non ci sarà più a raccontare, tutti quanti se non penserebbero che prima degli anni 70 le lesbiche in Spagna non c'erano. Así que ahora sabemos que en los años 40 también había lesbianas y se la pasaron bien. C'erano anche negli anni 40 le lesbiche, se la passavano per le mie iscrizioni. Ok, è più generico, non è riferito direttamente alla sessualità, ma è sulla individua di dubbiosa morale. Sì, ecco, porque el franquismo denominaba así individuos, por ejemplo, a las prostitutas, que son de poca consideración. ¿No? Quindi sì, individua, quindi per noi non lo usiamo, però sta per, cioè, è una persona intesa in maniera dispregiativa, e il franchismo si usava questo doppio standard, per cui c'erano i bordelli ufficiali, quelli andavano bene a regolare, e invece le prostitute che lavoravano per strada venivano arrestate e collate come individuo, quindi il titolo di quell'altra mostra viene. La seconda domanda è se in quello che avete capito fin qui la classe sociale era un elemento essenziale per vivere con più libertà il proprio lesbismo, se avete tracce insomma anche della vita lesbica. Classe, le nuove classe. Realmente lo che refleja in este video, por ejemplo, era precisamente che lo che unía a mujeres muy diversas era el tema del lesbianismo, ¿no? Entonces en el video se dice que el lesbismo unía a donne di clase sociale diversa. Sí, la cuestión es que eso sí era, por ejemplo, aquí se unían mujeres de clase trabajadora, mujeres de clase media que tenían tiendas, comercio, y mujeres del espectáculo, del cabaret, eso era muy importante. Sí, aquí c'erano donne lavoratrici, donne di clase media y donne de un espectáculo, que es muy importante. Sí, porque entonces era, no era una mujer investigada o no, era un grupo de mujeres que vivían y se apoyaban y así podían disfrutar de su sexualidad. Por ejemplo, la clase, es decir, el dinero, era importante porque podían, quien tenía dinero vivía en una casa propia, y si tenía casa propia podía hacer fiestas privadas, y si hacían fiestas privadas podía disfrutar, iba a las chicas. Come vediamo con i locali si incontravano in molte, quindi si creava una comunità e si appoggiavano a vicenda, e quindi non si tratta di interviste di singole che vengono riprese da sole, ma si ha accesso ad un mondo in cui appunto c'era una rete sociale. E in particolare la differenza se avevi soldi o no era che avevi una casa tua e potevi fare feste e ci andavano le ragazze. Desde la historia dispara, cuando todos andan a clara, se despierta para verte, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera, para blanda la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se quedará clara la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. casa donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la estranable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. E con questo pezzo bellissimo sotto che ci dà anche gioia. Come junta seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre comandante, aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Iniziamo a farvi insomma conoscere questo incontro che abbiamo avuto con queste due compagne, Raquel Osborne e Cecilia Montagut, che hanno lavorato, insomma, due delle 30 persone che stanno lavorando al progetto Mujeres Bajo Suspecia, Memoria y Sexualidad, tra gli anni tra il 1930 e il 1980. La prima domanda che abbiamo posto a Raquel è ovviamente di presentarsi. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è di presentarsi e di raccontarci un po' questo progetto. Me llamo Raquel Osborne. Sono Raquel Osborne, sono la direttrice del progetto Memoria e Sessualità sotto il franchismo, cominciato a Madrid da qualche anno con un gruppo di donne e qualche uomo. Un progetto sulla sessualità fuori della norma sotto il franchismo. Abbiamo iniziato il progetto perché ci siamo accorte che si stava costruendo la storia, la memoria degli uomini gay, dei maschi non eterosessuali, mentre quella delle ragazze e delle donne non si stava facendo. E abbiamo pensato che fosse un vuoto che dovevamo riempire. Hanno cercato di dissuaderci dicendo che non c'era niente da ricercare sulla sessualità delle donne, perché quando c'era il franchismo c'era solo repressione e così non avremmo trovato niente. Ma noi pensavamo che avremmo trovato qualcosa e lo abbiamo trovato. Per questo motivo, quindi, con i risultati di questa ricerca, per esempio, abbiamo chiesto a questo festival, a Sun Prefer Cake, di poter partecipare con un breve video che mostra una donna anziana di più di 80 anni che è lesbica e che con un gruppo di altre lesbiche ha potuto vivere la sua sessualità in modo molto piacevole nella Barcellona degli anni 40, 50, 60 e 70. Il video presentato mostra la sua testimonianza. Romper la cadena de la esclavitud hacia otra vida mejor, donde los humanos gocen del amor. Debe y las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. hermano. Questo pezzo è A las mujeres, un pezzo delle lotte antifranchiste degli anni 30. Defendemos con mucha razón. Se acabarán los tiranos, guerra no queremos, ni la explotación. Debe y la mujer es de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujer, hermanas que amáis con fe la libertad, habéis de crear la nueva sociedad. Le sorelle e le compagne sono chiamate alla rivoluzione per la libertà da questo pezzo. A todos en dulce vivir. Todos nacemos iguales, la naturaleza hace distinción. Comunista libertario, luchad con firmeza la revolución. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujer, dopo Raquel, a Cecilia Montagut, la regista, abbiamo chiesto allo stesso modo di presentarsi e di parlare del video che hanno presentato al festival. Questa è la risposta. Cecilia Montagut, la realizzadora del video. Bueno, sono Cecilia Montagut, la realizzatrice del video documentario Donne di Buen Vivir, lesbiche sotto il franchismo. Este video se ha hecho en base a unas imágenes grabadas por el... Questo video è realizzato con le immagini riprese da un'equipe di informatici dell'università dove lavora Raquel. Lo fecero per passare le immagini dell'evento in cui fu presentata questa testimonianza in streaming. Ma noi abbiamo valutato che era materiale molto importante e che se si fosse perso, se fosse stato visibile solo alle persone presenti all'evento, sarebbe stata una perdita dolorosa. Poder transformarlo en un documental y poder llegar a diferentes públicos. E pertanto abbiamo deciso di cercare di farne un documentario e farlo così arrivare a un pubblico diverso. Per esempio qui a San Prefer Cake, dove l'ho spedito ed è stato selezionato. Parlando con Elena. E nel video hai... Gli chiedo, nel video ci sono molte foto degli anni 50, dove le avete prese? 40 e 50. La stomaron. Bueno, hay algunas fotos que pertenecen al álbum familiar de... C'è una foto che appartiene all'album di famiglia della protagonista, la testimone, Luisa. Per il resto mi sono messa a cercare foto su internet, su YouTube, per cercare foto che potessero illustrare quest'epoca. Nosotros hicimos un largometraje sobre todo el seminario de una hora e 10. Abbiamo realizzato anche un lungometraggio su tutto il seminario di un'ora e 10 e anche in questo ci sono tutte queste immagini. Lo primero que hice yo fue buscar todo por YouTube. Come prima cosa le ho cercate in YouTube. Busqué a a quien pertenecían los derechos. Poi al momento del montaggio mi sono dovuta occupare dei diritti di queste immagini. C'è stato chi mi ha donato i diritti, chi mi ha chiesto di pagarli. Per pagare questi diritti abbiamo aperto una pagina web di crowdfunding dove chi ha voluto ha potuto contribuire. Hai también un lungometraje tuyo. Sí, bueno, anche il lungometraggio è tuo, gli chiedo. Come il progetto Memoria e Sessualità. Sì, ha un'azione del progetto, si intitola come il progetto Memoria e Sessualità sotto il franchismo. Grabación también por el equipo informático. Siamo partiti da 14 ore di girato da parte dell'equipe di informatici dell'università che avevano ripreso tutte le conferenze. Ciascuna conferenza dava un argomento diverso e tutte insieme davano l'idea di com'era la sessualità delle donne in quest'epoca. Mi sono studiata 14 ore di girato per prendere le parti fondamentali e costruire un discorso unico tramite i pezzi delle conferenze. Abbiamo potuto comporre il puzzle e trasmetterlo ad un pubblico non specializzato, che non ha potuto seguire per 5 giorni di seguito le conferenze di tutti i ricercatori e che magari non ha la possibilità di leggersi un intero saggio. Un pubblico interessato però raggiungibile se l'accesso è più facile, se lo porti nelle diverse città e realmente diffonderlo soprattutto tra i giovani. Lo abbiamo voluto diffondere soprattutto tra i giovani e le giovani che non hanno idea di quello che è successo in un tempo che non è poi troppo lontano. Contraataques muy rabiosos. Deberemos resistir. Ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir. Ay, Carmela, ay, Carmela. Per igual que combatimos. Per igual que combatimos. Prometemos resistir. Ay, Carmela, ay, Carmela. Prometemos resistir. Ay, Carmela, ay, Carmela. E dopo ai Carmela passiamo alla seconda domanda che abbiamo rivolto a Raquel Osborne, e le abbiamo chiesto di raccontarci le altre azioni, oltre al video che abbiamo visto a Bologna, e gli altri prodotti di questo progetto di ricerca sulla sessualità delle donne sotto il franchismo. Claro, de donde ha salido este video es el primer un gran seminario. Quello da cui è stato tratto il video è stato un grosso seminario di un'intera settimana sopra il risultato della ricerca che abbiamo, e da lì è uscito, oltre a questo video, un libro che abbiamo intitolato Mujeres bajo sospecha, che è la seconda fase del progetto. E abbiamo realizzato anche una grande mostra con circa 200 pezzi originali sul tema della sessualità delle donne sotto il franchismo. E questa mostra sta viaggiando sia in Spagna che all'estero, in parte ha già girato, è già stata in Francia, negli Stati Uniti, e speriamo che vada altrove. Grazie a questi prodotti, film, video, mostre, i risultati di questa ricerca stanno raggiungendo un pubblico molto vasto, molto più vasto dell'università. Che significa Mujeres bajo sospecha? Lo che queríamos resaltar era es un nombre, un titolo que abarcara un poco. Volevamo un titolo che abbracciasse tutti i campi su cui abbiamo fatto la ricerca e continuiamo a ricercare. Seguimos investigando porque bajo el franquismo ninguna mujer que. Perché sotto il franchismo nessuna donna che non seguisse il mandato di vita e la sessualità che si voleva imporre erano accettabili, erano donne sotto sospetto, da sospettare, che fossero diverse da come volevano che fossimo. Este proyecto está dentro un debate pubblico sobre el franquismo. Questo progetto è all'interno di un dibattito pubblico sul franchismo? È un argomento presente questo nel dibattito pubblico spagnolo? Como 10-12 años se publicó. Circa 12 anni fa è uscita la legge della memoria storica che ha scatenato il fenomeno di ricerche sulle rappresaglie del franchismo. La investigación, digamos, más dura. La ricerca più dura, più dolorosa, è quella sul reperimento dei cadaveri dei desaparecidos, che in Spagna ammontano perlomeno a 140.000 persone disperse. Es decir, asesinados, desaparecidos durante la assassinate, disperse e durante la guerra civile e dopo. Entonces eso es la gran tarea de intentar reivindicar esa memoria y realmente. Questo è il grande obiettivo, poter celebrare, rivendicare questa memoria e che a sus muertos e che le famiglie possano finalmente seppellire i loro morti. Lo que pasa que la memoria es una cuestión amplia, en sentido amplio, y nosotros hemos. La memoria è un concetto ampio e noi abbiamo cercato di occuparci di quegli aspetti della memoria che vengono trascurati dalla ricerca principale, come la memoria LGBT e in questo caso in specifico delle donne, che è l'ultima memoria, come un tema pubblico, la più dimenticata, e noi la stiamo ponendo come un tema pubblico. Ora è un tema che ormai esiste nel dibattito pubblico. Las barricadas. Thank you. Claro, sì, bueno. Scusate, ma mi è scappato la voce, insomma. E la domanda che abbiamo poi posto ancora a Raquel Osborne è, partendo dal presupposto, insomma, che l'Università di Madrid ha finanziato questo progetto, gli abbiamo chiesto se, visto che questo progetto va avanti da alcuni anni, se con il governo Rajoy, con il governo di destra che c'è tuttora in Spagna, è cambiato qualcosa rispetto ai finanziamenti per questa ricerca. Sì, bueno, non è esattamente la università, io lavoro in la università. Non è propriamente l'università che ha finanziato, io lavoro all'università e così posso chiedere finanziamenti per la ricerca. Del Ministero dell'Educazione, diciamo. Questo è un progetto del Ministero dell'Educazione. L'economia. Che ora ha cambiato nome, si chiama dell'economia. Università dell'Economia e Innovazione. Dell'economia e dell'innovazione. Dell'educazione. Para secondaria. Para... C'è il Ministero dell'Educazione a cui fa capo la scuola secondaria, ma l'università no. Pero también tuvimos para la, por ejemplo, para la exposición una subvención del Ministerio de Presidencia. Per la mostra abbiamo poi avuto un finanziamento del Ministero della Presidenza che dava finanziamenti per progetti sulla memoria storica e questo con il governo Rajoy è finito. O sea que claro que sí. Este proyecto ¿cómo se dice? No. Involucrò il movimento dei femministas e sì, lesbianas. Questo progetto ha coinvolto i movimenti delle femministe e delle lesbiche, in che modo? Lo che hicimos fue, digamos, juntar investigadores e investigadoras. Sì, quello che abbiamo fatto è stato raggiungere tutte le ricercatrici e i ricercatori dei diversi luoghi, delle università, del movimento femminista o LGBT, che stavano lavorando sull'argomento, che comunque avessero interesse o le capacità per fare qualcosa. Abbiamo dato luogo a un magma, un puzzle di cose che già c'erano e di altre che pensavamo ci dovessero essere. Abbiamo messo insieme molte diversità, persone diverse, in tutto circa 30 persone, in modi diversi, e anche per questo il progetto ha avuto molta diffusione. Diffusione perché teniamo molta gente in distinti siti. Perché teniamo molte collaboratrici in molti luoghi diversi, in movimenti diversi, anche nel mondo della cultura che si è mosso. Museo di arte contemporanea. Abbiamo per esempio avvicinato il Museo di Arte Contemporanea che si è dimostrato interessato a questa ricerca. Y eso también en centros culturales. Y después la... Dopo la mostra, i documentari, il libro pubblicato, ci sono state reazioni delle lesbiche, dei movimenti, delle associazioni? Le femministe, dei movimenti, delle associazioni? Mira, la questione è eso, che il tema già esiste. Il fatto è che ormai la questione esiste, è pronto per essere studiato, perché abbiamo realizzato materiali di studio, per esempio... Il video di cui si sta parlando si sta proiettando nelle scuole, durante i corsi universitari, nei master. In classe, nella secondaria o all'università? Normalmente più nella università. Più che alla scuola, all'università? Per esempio alla esposizione in Madrid. Per esempio alla mostra a Madrid, altrove dopo l'inaugurazione non abbiamo potuto essere presenti. A Madrid è stata allestita per un mese. In questo mese abbiamo avuto visite di associazioni, di donne, del movimento delle donne, gruppi di universitarie che poi lo avrebbero passato alle scuole. Se studiava l'esposizione, iban allí e le insegnava gruppi di secondaria. De hecho, tenemos, por ejemplo, una guía didáctica. Infatti abbiamo anche un percorso didattico, cioè li stiamo ancora elaborando, ma alcuni sono già attivi. Una delle nostre investigatrici hacía visitas guiadas. A Siviglia una nostra ricercatrice ha elaborato una visita guidata, pensata come percorso didattico. E qui ci sono state molte visite di gruppi di donne delle scuole superiori, per cui la mostra è stata anche prolungata. Hubo que dejarla porque había demanda. Perché aveva più pubblico che... Perché c'era più pubblico che la voleva vedere. No, ora in Siviglia no. È allestita anche ora? No, sta per essere aperta in varie città, possiamo farla in più luoghi contemporaneamente. Dove possiamo prendere maggiori informazioni? Chiedo se ha un sito web. Stiamo per aprire la pagina web Mujeres Bajo Sospecha. Lo stiamo... ultimando, per cui potete porre nel motore di ricerca la frase Mujeres bajo sospecha o Memoria e Sessualidad. Ahí sale muchísima información y a partir de ahí sí que se podrían contactar. y escono muchas informaciones. Además, en mi página de Facebook hay una, tengo una... Ho una pagina sul mio profilo Facebook dove pubblico appuntamenti, dibattiti, una cosa, una piccola cosa in più rispetto al video presentato qui. Pongo tutta l'informazione che hai di lo che haya, se hai una charla, conferenza, alguna edizione, presentazione del libro, ahí aparece tutto lo che ha habido y lo che hai, per esempio, ora quando vayamos. Te aparecerá lo de San Prefer Cake, por ejemplo, ¿no? Entonces así más o menos los que va a ver, cuándo van a ser y así un poco se mantiene la gente informada. Per mantenere la gente informata. Un pequeño añadido respecto del video che se ha esposto qui. Rispetto al reperimento di immagini, abbiamo potuto attingere all'archivio della protagonista, all'archivio che è conservato dalla ricercatrice che se ne è occupata direttamente, cioè Matilde Albarracín. Parte di ese archivo che conserva o preserva la persona che investigò direttamente a Luisa, che è Matilde Albarracín. Hemos contato con il fondo del archivo de Matilde Albarracín. Gracias por estar interesado en este proyecto. Y apunto que scusate, chi è interessato a questo progetto può accedere a questo fondo che è tenuto da questa ricercatrice di Barcellona, Matilde Albarracín. Quest'ultimo pezzo di questo spazio redazionale si chiama Sin Pan, senza pane. Noi abbiamo ritenuto molto interessante questo progetto, per questo ve ne abbiamo voluto dare un assaggio. Per chi parla spagnolo si trova il libro Mujeres bajo sospecha e su internet effettivamente si trovano molti materiali, compreso alcuni video. E se qualcuno andasse in Spagna, forse vale la pena di, in questo periodo, vale la pena insomma di informarsi dove è esposta la mostra Memoria e Sessualidad. Torneremo comunque a parlarne con queste ricercatrici perché ci sembra un argomento molto interessante, perché l'antifascismo e il femminismo sono strettamente congiunti e questo lavoro storico insomma ne dà ancora un pezzetto insomma alla completezza di questa comprensione. Mi lasciamo con Tierra y Libertad in versione strumentale.